Marsiglia ai primi di pratile. Il gioioso mese di maggio sta per terminare, dice mamma. Si chiama Napoleone. Quando mi desto la mattina e penso a lui e me ne sto coricata con gli occhi chiusi perché Giulia creda che io dorma ancora, il cuore mi pesa nel petto come un grosso fardello. Per la grande passione. Non ho mai saputo che l'amore si possa proprio sentire, voglio dire, fisicamente. Dentro di me io sento qualche cosa che mi tira dalla parte del cuore. Ma è meglio che io racconti tutto per ordine, così devo incominciare da quel pomeriggio, quando i fratelli Buonaparte ci hanno fatto la prima visita. Sono venuti come avevo combinato con Giuseppe Buonaparte, il giorno dopo quello della mia mancata visita ad Albit. E proprio nel tardo pomeriggio, Stefano, che di solito a quell'ora non è ancora rincasato, aveva anticipato la chiusura del negozio e se ne stava con mamma nella stanza di soggiorno perché i due giovani vedessero subito che in casa nostra non manca la protezione maschile. Per tutta la giornata non avevano parlato molto con me e io sentivo che erano tutti stizziti per il mio contegno sconveniente. Giulia, dopo la colazione di mezzogiorno, si era ritirata in cucina perché le era improvvisamente venuta l'idea di cuocere una torta. Mamma veramente aveva detto che non era il caso. Le parole avventurieri corsi, che erano state coniate da Stefano, le stavano sempre fitte nella mente. Io girellai un poco in giardino. C'era già un forte odore di primavera e sui cespugli di sambuco trovai i primi boccioli. Poi mi feci dare uno straccio da Maria e incominciai a spolverare i mobili del padiglione. Per ogni evenienza, pensai. Quando riportai lo strofinaccio, vidi che Giulia era in cucina. Stava appunto ritirando dal fuoco una torta. Aveva delle macchie rosse in faccia, delle piccole gocce di sudore sulla fronte e una pettinatura che stava per disfarsi completamente. «Tu fai tutto alla rovescia, Giulia», dissi così, senza pensarci. «Come?» Ho fatto la torta proprio secondo la ricetta di mamma e vedrai che piacerà molto ai nostri ospiti. Ma non parlo della torta, dissi io, ma della tua faccia e della tua pettinatura. Quando verranno quei due signori tu odorerai di cucina e... Mi interruppi. Per l'amor del cielo, lascia stare la torta, Giulia. Va subito in camera a incipriarti il naso e molto più importante di tutte le tue torte. Che cosa andate dicendo alla bambina, Maria? Gridò Giulia stizzita e si voltò a cercare Maria. «Ah, se non vi offendete, mademoiselle Giulia, credo che la bambina abbia ragione», disse Maria e le tolse la torta di mano. Mentre Giulia si pettinava in camera nostra e si dava cautamente un po' di rossetto, io mi sporgevo dalla finestra e guardavo fuori sulla strada. «E tu non ti cambi?» domandò Giulia stupita. Ma a me non sembrava che importasse molto. Naturalmente Monsieur Giuseppe mi piaceva assai, ma segretamente io già lo avevo fidanzato con Giulia. Per quanto riguardava suo fratello, il generale, non potevo neppure pensare che si sarebbe in qualche modo occupato di me. Non sapevo neppure di che cosa si possa parlare con un generale. Mi interessava soltanto l'uniforme e speravo inoltre che mi avrebbe raccontato qualche cosa delle battaglie di Valmy e di Vatigny. «Speriamo che Stefano sia cortese e affabile con loro», non cessavo di pensare. «Speriamo che tutto finisca bene». Così, mentre mi sporgevo dalla finestra, ero colta dal panico della ribalta. «Ed ecco che li vedo arrivare!» Stavano discutendo animatamente e venivano verso casa nostra, sulla strada. E allora provai una delusione immensa. Ah no, così proprio no. Era piccolo, ancora più piccolo di Monsieur Giuseppe. E sì che questi è appena di media statura. E addosso non aveva niente che luccicasse, né decorazioni, né cordoni. Ah, solo quando furono giunti davanti alla nostra casa vidi che portava delle piccole spalline dorate. La sua uniforme era di color grigio scuro e i suoi alti stivali non splendevano e neppure gli andavano a pennello. Non potei vedergli la faccia. Era coperta dall'enorme cappello fregiato soltanto di una coccarda della Repubblica. Non avrei mai creduto che un generale potesse avere un aspetto così dimesso. Ero davvero delusa. «Ha un aspetto molto meschino», mormorai. Giulia, che si era avvicinata a me, ma a lei si teneva nascosta dietro la tendina. Evidentemente non le garbava che i due cittadini si accorgessero della sua curiosità. «Ma come?» «Sembra molto grazioso, invece», disse lei. «Non puoi pretendere che un segretario della Maison Commune si agghindi chissà come». «Ah, Tu dici di Monsieur Giuseppe? Sì. Ah, lui è proprio elegante. Almeno sembra che qualcuno gli lustri regolarmente le scarpe. Ma il suo fratello minore, il generale. Scossi il capo sospirando. Ah, una delusione immensa. Non sapevo che nell'esercito ci fossero degli ufficiali così piccoli. E come te l'hai immaginato? Volle sapere Giulia. Io mi strinsi nelle spalle, come un generale, ecco, come un uomo al cui cospetto si ha l'impressione che sappia veramente comandare. Strano, tutto questo è accaduto appena 2 mesi fa, e si direbbe invece che già sia trascorso un'eternità da quel momento in cui io per la prima volta vidi Giuseppe e Napoleone seduti insieme nella nostra stanza di soggiorno. Quando entrammo, Giulia ed io, tutti e due scattarono in piedi e si inchinarono con esagerata cortesia, non solo verso Giulia, ma anche verso di me. Poi sedemmo tutti, rigidi e accigliati, intorno alla tavola ovale di Mogano, mamma sul divano e accanto a lei Giuseppe Bonaparte, dall'altra parte il meschino generale sulla sedia più scomoda di tutta la casa e di fianco a lui Stefano. Giulia ed io stavamo tra mamma e Stefano. Ho ringraziato il cittadino Giuseppe Bonaparte della cortesia con cui ieri ti ha accompagnata a casa, Eugenia, disse mamma. Mentre mamma riempiva i bicchieri e tagliava la torta, Stefano si ingegnava a fare un po' di conversazione. È forse indiscreto domandare se state prestando servizio nella nostra città, cittadino generale? Disse rivolgendosi al suo vicino. Invece del generale rispose prontamente Giuseppe. Oh, affatto, l'esercito della Repubblica Francese è un esercito di popolo ed è mantenuto con i tributi dei cittadini. Perciò qualunque cittadino ha il diritto di essere informato dei provvedimenti del nostro esercito. Dico bene, Napoleone? Il nome di Napoleone suonava alquanto strano. Ci volgemmo tutti verso il generale. Potete domandare tutto quello che desiderate, cittadino Clary, disse il generale. Io almeno non faccio alcun mistero dei miei progetti. Secondo me, la Repubblica non fa che sciupare la propria energia in questa interminabile guerra di difesa dei confini. E guerre difensive non fanno che causare spese, e non ci danno gloria, e neppure la possibilità di riempire le casse dello Stato. Tante grazie, Madame Clary, tante grazie. Mamma gli aveva porto il suo piatto con una fetta di torta e subito rivolgendosi a Stefano lui riprese: Dovremo inevitabilmente passare alla guerra offensiva. In questo modo sì, si aiuteranno le finanze della Francia e si mostrerà all'Europa che l'esercito popolare della Repubblica non è battuto. Io ero stata attenta, ma non avevo bene afferrato il senso delle sue parole. Il generale aveva lasciato il suo grande cappello in anticamera e così potevo osservare bene la sua faccia. E sebbene non sia una faccia bella, a me sembrava la più straordinaria di tutte le facce che ho visto e di cui ho sognato finora. Ho anche capito subito perché il giorno innanzi mi era piaciuto tanto Giuseppe Bonaparte. I due fratelli si rassomigliano molto, ma i tratti di Giuseppe sono più dolci, assai meno pronunciati di quelli di Napoleone. Essi non rivelano che la possibilità di quel volto al quale mi sembrava di avere sempre aspirato. La faccia di Napoleone è invece il compimento di questa possibilità. Guerra offensiva? Udii adesso domandare da Stefano sconcertato. Nella stanza si era fatto un grande silenzio ed io compresi che quel giovane generale doveva aver detto qualche cosa di sorprendente perché Stefano lo guardava completamente smarrito. Sì, ma cittadino generale, forse che il nostro esercito, di cui si dice che l'equipaggiamento sia molto modesto. Il generale fece un gesto con la mano e rise. Modesto? Non è questo il termine esatto. Noi abbiamo un esercito miserabile. Al confine i nostri soldati sono vestiti di cenci, in battaglia marciano con gli zoccoli di legno. E il nostro esercito è così pietosamente armato da far pensare che tra non molto il ministro della guerra Carnot difenderà la Francia con gli archi e con le frecce invece che con i cannoni. Io mi chinai più avanti e lo guardai fisso. Giulia mi disse, dopo che mi ero comportata in modo semplicemente impossibile, ma non potevo fare altrimenti. Egli ha un volto magro, dalla pelle tesa e bruciata dal sole, incorniciato da capelli rossobruni. I capelli gli scendono arruffati fin sopra le spalle e non recano traccia di cipria. Quando ride, la sua faccia sparuta assume improvvisamente un aspetto fanciullesco e allora sembra più giovane di quel che in realtà non sia. Io sussultai, perché qualcuno diceva, rivolgendosi a me, «Alla vostra salute, signorina Clary». Tutti avevano alzato i bicchieri e centellinavano il liquore. Giuseppe si volse col suo bicchiere dalla mia parte, dandomi una strizzatina d'occhi, e a me venne in mente allora il nostro discorso del giorno prima. «Chiamatemi pure Eugenia, come tutti gli altri», proposi. Mamma inarcò le sopracciglia, irritata, mentre Stefano non aveva udito nulla, tanto era infervorato nella conversazione col generale. «E su quale fronte potrebbe essere attuata con successo una guerra offensiva?» domandò Stefano. «Sul fronte italiano, naturalmente. Noi scacceremo gli austriaci dall'Italia. Sarà una campagna che non costerà molto. Le nostre truppe in Italia potranno essere vettovagliate con grande facilità. È un paese così ricco e fertile». «E il popolo italiano? Non parteggia forse per gli austriaci?» «Il popolo italiano verrà liberato da noi. In tutte le province che conquisteremo, noi proclameremo i diritti dell'uomo». Sebbene il generale sembrasse interessarsi assai del tema della conversazione, si vedeva tuttavia che lo infastidivano le obiezioni di Stefano. «Avete un meraviglioso giardino», disse Giuseppe Bonaparte rivolgendosi a mamma e gettò uno sguardo oltre la porta vetri. «La stagione è ancora un po' fredda», udimmo allora improvvisamente la voce di Giulia, «ma quando fiorisce il sambuco e intorno al padiglione le rose rampicanti...» Ella tacque, confusa. Capii da queste sue parole che Giulia aveva già perduto il suo equilibrio, perché il sambuco e le rose rampicanti non fioriscono insieme. «E i piani per una guerra offensiva sul fronte italiano hanno già assunto forma concreta?» Stefano non dava tregua. L'idea di una guerra offensiva sembrava affascinarlo. «Per conto mio sono pronto. Attualmente sto visitando le nostre fortificazioni qui nel mezzogiorno». «Nei circoli governativi si è dunque decisi ad una campagna in Italia?» «Il cittadino Robespierre mi ha personalmente affidato l'incarico di questo viaggio di ispezione. Lo giudico necessario prima dell'inizio della nostra offensiva in Italia». Stefano fece lievemente schioccare la lingua contro il palato, segno che era profondamente impressionato. «Un grande piano!» e annuì col capo. «Un piano audace!» Il generale guardò sorridendo Stefano e il suo sorriso parve conquistare completamente mio fratello, questo posato uomo d'affari. Stefano tartagliava come uno scolaretto e disse con impeto: «Purché questo grande piano riesca? Purché riesca?» «State tranquillo, cittadino Clary, riuscirà», rispose il generale e si alzò in piedi. «E quale delle due signorine vorrebbe essere tanto gentile da farmi vedere il giardino?» Giulia ed io balzammo simultaneamente in piedi e Giulia sorrise a Giuseppe. Non so poi dire esattamente come sia andata, ma 2 minuti dopo ci trovavamo noi quattro, senza la mamma e senza Stefano, nel giardino ancora spoglio nella incipiente primavera. Poiché il sentiero che porta al padiglione è molto stretto, dovemmo camminare a coppie. Giulia e Giuseppe andavano innanzi, mentre io camminavo al fianco di Napoleone e mi affaticavo il cervello per trovare un argomento sul quale conversare con lui. Desideravo tanto di fargli una buona impressione, ma sembrava che egli non si accorgesse del nostro silenzio e appariva assorto in profondi pensieri. E intanto andava così piano che Giulia e suo fratello si allontanavano da noi sempre più. A un tratto ebbi l'impressione che egli rallentasse studiatamente i suoi passi. «Quando credete che mio fratello e vostra sorella si sposeranno?» disse di punto in bianco. Dapprima credetti di non aver bene inteso. Lo guardai smarrita e mi accorsi che arrossivo. «Dunque?» domandò ancora. «Quando si faranno le nozze? Spero presto». «E sì, ma quei due si sono conosciuti appena adesso?» balbettai. «E noi non sappiamo se...» «Ah, quei due sono fatti l'uno per l'altra», dichiarò. «E di questo anche voi siete convinta». «Io?» Spalancai gli occhi con aria stupefatta e lo guardai proprio come guardo Stefano quando mi sento la coscienza non troppo tranquilla e non voglio che lui mi rimproveri. In questi casi Stefano per lo più mormora qualche cosa come occhioni di bimba e non fa più il cattivo con me. «Ah, vi prego, non guardatemi in questa maniera», disse lui. Confusa com'ero, avrei voluto sprofondare sottoterra, ma insieme mi prese una grandissima stizza. Eppure, voi stessa ieri sera avete pensato che sarebbe una buona combinazione se vostra sorella e mio fratello si sposassero. Ella è appunto in quell'età nella quale le ragazze vogliono fidanzarsi, disse lui. Ma io non ho pensato a niente di questo, cittadino generale, insistetti io, e un sentimento mi diceva che in qualche modo io avevo compromesso mia sorella. Non mi adiravo più contro di lui, ma soltanto contro me stessa. Egli si fermò e si voltò dalla mia parte. Non mi superava in altezza che di mezza testa e sembrava che gli piacesse d'aver trovato qualcuno da poter guardare dall'alto in basso. Era l'ora del tramonto e il crepuscolo primaverile di un colore azzurro pallido si interponeva come una parete tra noi e Giulia e Giuseppe. Il volto del generale mi era così vicino che io potevo osservare bene i suoi occhi. Balenavano e con stupore accertai che anche gli uomini possono avere le ciglia lunghe. Con me non dovete mai avere dei segreti, Mademoiselle Clary, perché vedete, alle ragazze giovani io so guardare fino in fondo al cuore. E poi Giuseppe mi ha raccontato già ieri sera che gli avevate promesso di presentarlo alla vostra sorella maggiore e in questa occasione voi gli avete anche detto che vostra sorella è molto bella. Non avete detto la verità e la vostra piccola bugia deve aver avuto un suo motivo ben definito. «Dobbiamo andare avanti. Quei due ormai devono già essere arrivati al padiglione», scappai fuori a dire io. «Non vogliamo dare a vostra sorella la possibilità di conoscere un po' più da vicino mio fratello prima di fidanzarsi con lui?» mi domandò sommesso. La sua voce aveva un suono dolce, quasi una carezza. Nel suo eloquio la pronuncia straniera compariva molto meno frequente che in quello di suo fratello. «Giuseppe chiederà ben presto la mano di vostra sorella», mi annunziò con la massima calma. Ormai si era fatto tanto buio che io potevo vedere solo indistintamente il suo volto, ma mi accorsi che sorrideva. «Come fate a saperlo?» gli domandai confusa. «Ne abbiamo parlato ieri sera», mi rispose come se fosse la cosa più naturale del mondo. «Ma ieri sera vostro fratello non conosceva ancora mia sorella», risposi io sdegnata. Allora egli prese disinvolto il mio braccio ed io me lo sentii vicino con tutta la sua persona. Avanzammo lentamente ed egli parlò con me così dolcemente, come se fossimo amici da molti anni. «Giuseppe mi ha raccontato del vostro incontro con lui e mi ha anche detto che la vostra famiglia è molto agitata. Certo, vostro padre non è più vivo, ma suppongo che abbia lasciato una notevole dote tanto a voi che a vostra sorella. Invece la nostra famiglia è molto povera». «Anche voi avete delle sorelle, non è vero?» Ricordai che Giuseppe mi aveva parlato di sorelle sue che pressappoco dovevano avere la mia età. «Ho altri tre fratelli e tre sorelle, tutti più giovani di noi», disse. «E Giuseppe e io dobbiamo pensare alla mamma e a tutti i nostri fratelli. La mamma ha sì una piccola pensione dallo Stato perché è considerata patriota perseguitata da quando è dovuta fuggire dalla Corsica. Ma questa pensione non basta neppure a pagare la pigione, Mademoiselle Eugenia. È così cara adesso la vita in Francia. Allora vostro fratello vorrebbe sposare mia sorella soltanto per la sua dote?» Cercavo di parlare in termini positivi e concreti, ma la mia voce tremava dalla stizza e dal dolore. «Ma che cosa vi viene in mente, Mademoiselle Eugenia? Io trovo che vostra sorella è una ragazza molto amabile, che è tanto gentile e modesta, con degli occhi così belli. Sono convinto che piace assai a Giuseppe. Quei due saranno molto felici». Affrettò intanto i suoi passi. Sembrava che per lui l'argomento fosse esaurito. «Dirò a Giulia quello che mi avete rivelato», minacciai. «Naturalmente. Appunto per questo vi ho esposto tutto in modo così chiaro. Ditelo a Giulia perché sappia che ben presto Giuseppe verrà a chiedere la sua mano». Per un attimo ebbi l'impressione di aver avuto una mazzata in testa. «Che svergognati!» pensavo. «Che svergognati!» E dentro di me udivo la voce di Stefano. «Avventurieri corsi!» «Potrei sapere perché vi sta tanto a cuore il matrimonio di vostro fratello?» «Shh, non gridate così!» «Capirete, Mademoiselle Eugenia, che prima di assumere il comando supremo in Italia vorrei vedere la mia famiglia sistemata un po' meglio. D'altra parte Giuseppe si occupa di politica e di letteratura. Forse in uno di questi campi potrà venire a capo di qualche cosa, se non dovrà sempre darsi da fare con delle occupazioni di seconda linea. Dopo le mie prime vittorie in Italia, naturalmente penserò io a tutta la famiglia». Si arrestò un momento. E ci penserò a dovere, mademoiselle, potete credermi. Quando arrivammo al padiglione, Giulia domandò: Dove siete stato per tutto questo tempo con la piccina, generale? È da un pezzo che aspettiamo voi ed Eugenia. Si sarebbe potuto rispondere che tanto lei come Giuseppe si erano completamente scordati di noi. Se ne stavano seduti vicinissimi su di una panchina, sebbene ci fosse intorno una quantità di sedili liberi, e per di più si tenevano per mano e si immaginavano che nell'ombra del crepuscolo nessuno se ne accorgesse. Tornammo tutti e quattro insieme alla villa e i due fratelli Bonaparte volevano congedarsi, ma Stefano disse inaspettatamente: Sarebbe un grande piacere per mia madre e per me se il cittadino generale e il cittadino Giuseppe Bonaparte restassero a cena con noi. È un pezzo che non ho avuto occasione di conversare su argomenti così interessanti. Guardava così dicendo il generale e si sarebbe detto che lo supplicasse. Giuseppe invece sembrava essergli del tutto indifferente. Giulia ed io scappammo nella nostra camera per mettere in ordine le nostre acconciature. Quei due hanno fatto buona impressione a mamma e a Stefano, disse lei. Sia lodato il cielo. Ti comunico che Giuseppe Bonaparte verrà presto a chiedere la tua mano e farà questo essenzialmente, mi interruppi, mi si stringeva il cuore, per la dote, terminai. Come puoi dire queste orribili cose? La faccia di Giulia si era fatta di fuoco. Mi ha detto che la sua famiglia è proprio povera. Si mise due nastrini di velluto nero nei capelli e naturalmente non può sposare una ragazza povera in canna perché lui non ha che un piccolo stipendio e deve inoltre pensare a sua madre e ai suoi fratelli più giovani. Trovo che tutto questo è molto bello e poi, si interruppe, Eugenia, non voglio che tu adoperi ancora il mio rossetto. Ti ha già detto che vuole sposarti? Chissà perché alla tua età si deve sempre credere che un giovanotto non possa discorrere con una signorina senza parlarle subito d'amore. Col cittadino Bonaparte ho parlato soltanto della vita in generale e poi dei suoi fratelli e delle sue sorelle più giovani di lui. Mentre scendevamo in sala da pranzo, dove l'intera famiglia stava riunita intorno ai nostri due ospiti, Giulia improvvisamente mi cinse col braccio le spalle e premette la sua guancia contro la mia faccia. La sua guancia era molto calda. Non so che cosa sia, ma mi sento di ottimo umore, sussurrò e mi diede un bacio. Tutto questo probabilmente va messo in relazione con il suo innamoramento, pensai io. Per conto mio non sentivo né caldo né freddo, ma già provavo quel senso strano, come di qualche cosa che mi tirasse nella regione del cuore. Napoleone, pensavo, un nome simpatico. Questo si sente quando ci si incontra per innamorarsi. Napoleone. Tutto questo è accaduto 2 mesi fa e ieri ho avuto il primo bacio e Giulia si è fidanzata. Sotto un certo aspetto questi due eventi sono legati l'uno all'altro perché mentre Giulia e Giuseppe stavano seduti nel padiglione, Napoleone ed io ci intrattenevamo presso la siepe in fondo al giardino, in piedi per non disturbarli. Devo dire che mamma mi ha ordinato di passare sempre in giardino le ore serali con Giulia e Giuseppe, perché Giulia è una ragazza giovane e di buona famiglia. Dopo quella prima visita si può dire che i fratelli Bonaparte vengono a trovarci quasi tutti i giorni. Stefano, chi lo avrebbe mai detto? Ancora succedono dei portenti e dei miracoli. È lui che li ha incoraggiati, perché non ne ha mai abbastanza di discorrere col giovane generale. Povero Napoleone, queste conversazioni lo annoiano terribilmente. Stefano appartiene a quella specie di gente che apprezza il suo prossimo secondo la misura dei suoi buoni successi. Allora, quando io dissi che i fratelli Bonaparte erano dei profughi corsi, lui non voleva saperne di loro e li chiamava avventurieri. Ma poi Giuseppe gli fece vedere un ritaglio del numero di dicembre del Moniteur, dove è stata pubblicata la nomina di Napoleone a generale brigadiere, e da quel momento Stefano è infatuato di Napoleone. Perché Napoleone ha scacciato gli inglesi da Tolone? Le cose sono andate così. Gli inglesi, i quali si mischiano sempre nelle cose nostre e sono tanto sdegnati perché noi abbiamo condannato a morte il nostro re, e Napoleone ha detto a questo proposito che meno di 150 anni fa anche loro hanno fatto la stessa cosa col re loro, gli inglesi dunque si erano messi d'accordo con i realisti di Tolone e avevano occupato la città. Così le nostre truppe dovettero mettere l'assedio a Tolone. Napoleone fu mandato laggiù e quello che i suoi superiori non erano riusciti a fare lo fece lui in 448. Tolone fu conquistata d'assalto e gli inglesi presero la fuga. Fu allora che per la prima volta venne menzionato il nome di Buonaparte nel bollettino di guerra e Napoleone fu promosso generale di brigata. Naturalmente Stefano lo ha interrogato su tutti i particolari della vittoria di Tolone, ma Napoleone dice che non c'è voluta molta scienza. È stata appena la faccenda di un paio di cannoni e lui, Napoleone Bonaparte, sa molto bene dove e come si debbono impiegare i cannoni nel modo migliore. Dopo il buon successo di Tolone, Napoleone è andato a Parigi per vedere se in qualche modo gli riusciva di arrivare fino a Robespierre, perché Robespierre è l'uomo più potente del Comitato di Salute Pubblica. Questo comitato costituisce adesso il nostro governo. La via per arrivare al grande Robespierre passava dal piccolo Robespierre, il fratello del temuto commissario. Robespierre, quello vero, trovò che i piani di Napoleone per una guerra offensiva in Italia erano eccellenti. Ne parlò col suo collega Carnot e gli chiese di incaricare Napoleone dei lavori preparatori di questa campagna. Carnot è il capo del Ministero della Guerra e Napoleone dice che questo Carnot va su tutte le furie ogni volta che Robespierre si mischia nelle faccende del Ministero della Guerra perché sono cose che non lo riguardano. Ma nessuno osa contraddire Robespierre perché basta un mandato d'arresto firmato da lui per mandare un uomo alla ghigliottina. Perciò anche Carnot ha ricevuto Napoleone apparentemente con grande cortesia e si è fatto consegnare da lui i piani per la campagna d'Italia. Prima di tutto andate a vedere le fortificazioni del sud. Intanto io studierò attentamente le vostre proposte, cittadino generale, ha detto Carnot. Ma Napoleone è convinto che i suoi piani giacciano sepolti in un cassetto del Ministero della Guerra. Tuttavia Robespierre riuscirà a fare in modo che Napoleone ottenga il comando supremo in Italia, dice Giuseppe. Stefano e tutti i nostri conoscenti odiano questo Robespierre, ma non lo dicono a voce alta perché ne andrebbe della vita. Dicono che Robespierre avrebbe dato l'incarico ai componenti del tribunale rivoluzionario di riferirgli segretamente sul contegno e sulle idee di tutti i funzionari dello Stato. Sembra che anche la vita privata di un cittadino sia tenuta d'occhio. Robespierre ha dichiarato che un repubblicano onesto deve condurre una vita morale e dispregiare qualunque forma di lusso. Recentemente egli ha perfino fatto chiudere tutte le case di tolleranza di Parigi. Io ho domandato a Stefano se le case di tolleranza sono un lusso, ma mio fratello si è infuriato perché io non devo parlare di queste cose. E neppure è permesso di ballare sulla strada, sebbene questo nei giorni di festa sia stato finora il divertimento che costava meno. Stefano ci ha proibito severamente di criticare in qualunque maniera Robespierre in presenza dei fratelli Bonaparte. Lui stesso con Napoleone parla quasi soltanto dei piani della guerra in Italia. È una nostra sacra missione quella di fare intendere a tutti i popoli europei le idee della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità. Così dice Napoleone, e se sarà necessario di farlo con i cannoni. Io sto sempre ad ascoltare questi discorsi per essere vicina a Napoleone, sebbene mi annoi mortalmente. Il peggio è quando Napoleone incomincia a leggere a Stefano qualche pagina del manuale di artiglieria moderna. Ogni tanto capita anche questo e Stefano, l'idiota, si immagina di capirne qualche cosa. Io credo che Napoleone sia un vero ammaliatore. Ma quando è solo con me non parla mai di cannoni e ci capita molto spesso di essere soli. Infatti, dopo cena, Giulia dice regolarmente «Vorremmo andare un po' in giardino con i nostri ospiti, non è vero mamma?» E mamma dice «Andate pure, figliuoli!» E noi quattro, Giuseppe, Napoleone, Giulia ed io, scappiamo verso il padiglione del giardino. Ma prima che arriviamo al padiglione, Napoleone per lo più propone «Eugenia, che cosa ne diresti di una gara di corsa? Vediamo chi di noi due arriva prima alla siepe!» Allora mi sollevo la gonna e Giulia grida «Tenti, pronti, via!» Dopodiché Napoleone ed io, come due indemoniati, ci precipitiamo verso la siepe, mentre io con i capelli scarmigliati al vento e con il cuore in bocca e spolmonata raggiungo la siepe, Giuseppe e Giulia spariscono nel padiglione. Ogni tanto Napoleone vince la corsa, ogni tanto la vinco io, ma quando raggiungo la siepe per prima so bene che Napoleone mi ha lasciato vincere a bella posta. La siepe mi arriva giusto fino al petto. Di solito ci appoggiamo molto vicini alla parete vegetale ed io vi stendo sopra le braccia e guardo le stelle. E allora Napoleone ed io facciamo dei lunghi discorsi, per esempio sui dolori del giovane Werther, il romanzo di uno scrittore tedesco sconosciuto che si chiama Goethe e che adesso tutti si tengono sul comodino. Il romanzo, voglio dire, non lo scrittore. Ho dovuto leggermi il libro di nascosto perché mamma non ammette che io legga romanzi d'amore, ma il libro mi ha un po' delusa. È la storia incredibilmente triste di un giovane che si uccide con un colpo di pistola perché la fanciulla che gli ama va sposa al suo migliore amico. Invece Napoleone è entusiasta di questo libro. Gli ho domandato se davvero crede che ci si possa uccidere per un amore infelice. No, perché una fanciulla che io amo non sposa certo un altro, ha risposto ridendo. Ma poi si è improvvisamente fatto serio e mi ha guardato in faccia e io ho cambiato subito discorso. Ma spesso stiamo anche a lungo appoggiati alla siepe senza parlare e guardiamo il prato addormentato dall'altra parte. E più stiamo muti, più ci serriamo alla siepe. Mi sembra allora di udire il respiro dell'erba e dei fiori. Ogni tanto da qualche parte un uccello singhiozza, la luna pende dal cielo come una lanterna gialla e mentre contemplo la prateria addormentata penso: Signore Dio, fa che questa sera non passi mai, fa, oh Signore, che io stia sempre così appoggiata a Lui. Perché, sebbene abbia letto che non esistono potenze ultraterrene e che il governo a Parigi ha innalzato un altare alla ragione umana, quando sono molto triste o molto felice, penso sempre così al buon Dio.